junto a Cristo. Oh Señor mío, me ha cambiato la manera di cantare, di parlare, di vestire e camminare in questa vita. E si parlo dei miracoli e di tante cose belle che tu mi hai dato. Non finisco questa sera di contare tante cose che mi hai regalato tu. Io voglio amarti con tutto il bene e tutto il cuore, perché tu sei la vita mia e io ti voglio bene a te. Io voglio amarti con tutto il bene e tutto il cuore, perché tu sei la vita mia e io ti voglio bene a te. Nel principio non capì tante cose misteriose sulla vita mia, però adesso ti ringrazio perché già me l'hai mostrato e mi hai dato la vittoria in questa vita. E si parlo dei miracoli e di tante cose belle che tu mi hai dato. Non finisco questa sera di contare tante cose che mi hai regalato tu. Io voglio amarti con tutto il bene e tutto il cuore, perché tu sei la vita mia e io ti voglio bene a te. Quante cose mi hai mostrato di che ho ricevuto a Cristo, oh Signore mio. Mi hai cambiato la maniera di cantare, di parlare, di vestire e camminare in questa vita. E si parlo dei miracoli e di tante cose belle.